danneggia, mentre invece la rabbia dovrebbe essere un'emozione situazionale che scatta in quel momento per ottenere un obiettivo preciso di liberazione da un aggressore. Senta, dottor Aquilar, lei che è un esperto del nostro Daily Lab e quindi, come mi ha scritto un ascoltatore, siete esperti che aiutano a passare dalla teoria alla pratica. Ci aiuti con un consiglio? Al primo consiglio dobbiamo riconoscere quando siamo arrabbiati e dobbiamo sapere che non è nostra responsabilità se ci arrabbiamo, perché la rabbia è un'emozione che non dipende dal nostro desiderio. Poi dobbiamo decidere se vale la pena di esprimerla o di nasconderla, perché alcune volte può essere più utile nascondere la rabbia per ottenere un obiettivo. Infine, dobbiamo imparare, e sapere che è possibile farlo, a modularla. Non è vero che la rabbia è più forte di noi. La rabbia è più forte di noi solo se c'è una minaccia fisica grave a noi stessi o a una persona cara. Grazie, dottor Aquilar, per essere grazie stato con noi. Continueremo a seguirla. Spero di averla presto ospite qua a Essere Benessere. Intanto ci sarebbero due progetti di cui volevo parlarne in chiusura. Avremo modo di approfondirli però sul nostro sito con interviste dedicate. La prima, che la Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità nei Trapianti ha dedicato un progetto molto bello, storie, foto di pazienti trapiantati. Si chiama Synthesis. Riceverà presto un premio, possiamo dirlo? Sì, penso proprio di sì. Cioè, il 5 di luglio nella sala capitolare del Senato riceveremo appunto questo premio come società scientifica per la storia, appunto Synthesis, cioè questa attività che abbiamo svolto insieme alla Fondazione Alinari di Firenze. E in linea con noi abbiamo, la saluto un attimo, Fabio Cantadoni regge la parte tecnica, mi sta dicendo che sto sforando, abbiamo Laura Mazzeri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Laura Mazzeri, che è una giovane donna trapiantata, ha raccontato la sua storia in un docufilm, ne parliamo sul nostro sito. Il film si chiama Agama, che significa camaleonte. Se volete conoscere la sua storia, oggi pomeriggio ve la raccontiamo nelle pagine di Essere Benessere. Grazie a Laura Mazzeri, al professor Filipponi, a voi, a domani.